Lingue dell'Ufficio di Linguismo e Lingue Straniere. Oggi ospitiamo qui questa bellissima iniziativa che è molto legata alla nostra missione, appunto la conoscenza e l'apprendimento delle lingue e culture altre. Volevo solo approfittarne per ricordarvi che abbiamo una piccola sezione dedicata alla lingua e alla cultura ladina, sia per gli adulti che per i bambini, quindi ecco, sono materiali che sono al prestito, abbiamo anche dei DVD, quindi niente, solo per chi ancora non lo sapesse, e a breve sarà disponibile anche una piccola sezione online con dei siti alla quale stiamo lavorando. Lascio la parola ai diretti referenti e buona serata. Grazie. Ecco, allora io ringrazio Daniela Giamballi, il Centro Multilingue, ringrazio Marco Forni, che ritrovo con grande piacere, l'Istituto Mi Cura di Lì, la Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusta in via Mendola 5, qui ci sono delle locandine, noi organizziamo delle iniziative che abbiano sempre attinenza e interesse col territorio, ma non solo. È stato un incontro felice quest'anno con Marco Forni, ero andata alla LUB a sentire la prima presentazione del dizionario ladino italiano e devo dire che ci ha fatto piacere poi iniziare un legame, una collaborazione con la presentazione di un romanzo quest'autunno. È stata la prima iniziativa che avevamo avviato come biblioteca e poi ritrovarci qui in un contesto sicuramente anche più motivante visto la missione del Centro Multilingue. Noi abbiamo deciso di girare, ecco, di andare, di chiedere ospitalità al Trevi, al Centro Multilingue e al Teatro Cristallo o al Liceo Classico per le nostre future iniziative. Da 15 anni questa biblioteca esiste, in via Mendola 5, con un patrimonio di 100.000 volumi catalogati. Se prendete la locandina potete consultare liberamente da casa tutto il nostro catalogo. E organizziamo tante cose, solo che abbiamo deciso di girare perché la nostra sede è un po' nascosta e per farci conoscere e soprattutto cercare di diffondere i nostri servizi e la conoscenza chiediamo anche l'aiuto appunto dei nostri colleghi e soprattutto anche delle persone come Marco Forni che operano in questo settore e ci regalano dei tesori. Mi piace la frase che ha scelto per l'invito di questa sera, dove indubbiamente c'è una poetica anche di base, dove la lingua è una musica, insomma, ed è uno spartito incredibile lo stesso dizionario. Poi mi è venuto anche un'associazione, a me piacciono i gialli, ammetto questa devianza, a me piacciono i gialli, c'è Mark Harris che è un autore greco che ambienta questi gialli in Atene degli anni 90, e il suo protagonista ogni sera legge un pezzettino, un qualche pagina di un dizionario di greco antico ed è una cosa che mi ha colpito, però effettivamente anche in un dizionario si possono scoprire tante storie e tanti suoni nuovi. Io la ringrazio, invito voi anche a frequentare la nostra biblioteca come il Centro Multilingue, del resto insomma sono tutte strutture della provincia che operano e cercano di dare dei servizi sempre nuovi alla comunità. Siamo tutti reperibili online, vero? Sì. Ecco, con i nostri cataloghi e i nostri numeri di telefono. Grazie. Tutto gratuito. È tutto gratuito. Grazie. Buonasera, vi propongo due brani, adesso uno soltanto. Musica francese del 1700, Nicolas Chateville de Lévitré. È un brano molto, direi, semplice, con il flauto dolce, solo, thank you. accompagnarci in questa serata. Sentite cari, vi mettete davanti così ci sentiamo, ci abbracciamo meglio. Quello delle prime file è sempre un... Allora, dunque io ho pensato di impostare questa nostra serata in due parti, una prima dove illustro in breve il dizionario e una seconda dove vi voglio portare con me a fare un viaggio. Cerchiamo di immaginare un viaggio in una realtà un po' variegata come la nostra. Vi prometto che non parlerò più di 3 ore e voi vi state preoccupando, quindi cercheremo di condensare, ma vedrete che sarà una cosa, succederà qualcosa, forse. Allora, la crusca, cos'è che vi fa venire in mente questa parola? La crusca è un residuo della macinazione dei cereali, quindi è benemerito nella dieta per l'apporto di fibre. Perché io parto da questo? Perché secondo me è bene ricordare questa cosa. Nel 1712 l'Accademia della Crusca fa stampare il primo vocabolario e lo fa stampare all'estero, e all'estero a quei tempi era Venezia era all'estero, e nel 1612 hanno stampato il vocabolario degli accademici della Crusca. È il primo vocabolario che ha aperto la strada a tutti gli altri vocabolari europei, e questa è una cosa secondo me che tanti non sanno e che è bene sottolineare. La Fruchtbringende Gesellschaft, la società fruttifera, che è più o meno analoga a quella dell'Accademia della Crusca, sorge proprio su stimolo dell'Accademia della Crusca. Quindi diciamo che la lessicografia a un certo livello prende proprio le mosse da Firenze, dall'Accademia della Crusca. Ciao caro. Allora, si calcola, mi sentite bene? Sì. Si calcola che ci siano al mondo 6-7 mila lingue più o meno, e questo cosa sta a dimostrare? Che chi aveva avuto quella idea balzana di voler costruire quella torre fantomatica, la torre di Babele, dove appunto la ricerca di questa lingua perfetta, ha sbagliato traiettoria. E poi c'è stato un signore che intorno al 1300 dice: opera naturale quam favella, ma così o così natura lascia, puoi fare a voi secondo che va bella. Quindi questa molteplicità di lingue è la dimostrazione della imperfezione anche delle lingue, se vogliamo. Ecco, quello che presenteremo oggi in breve è appunto il dizionario italiano ladino gardenese, Dizionario Ladin de Gardena Italien, che è in 2 volumi. Ci avevamo messo 10 anni a fare questo lavoro, quindi il lavoro si è concentrato diciamo in 7 anni di intenso lavoro, ma complessivamente sono 10 anni di lavoro. L'italiano come lingua anche di spiegazione, che ci ha aiutato anche a spiegare una messe di lessico ladino. Quello che noi abbiamo cercato di fare però è di sposare, cioè di proporre un binomio tra tradizione e innovazione. Quindi abbiamo cercato di raccogliere una porzione di lessico che non c'è più, che andava a significare una realtà alpina, contadina, ma nel contempo troviamo anche una porzione di lessico che abbraccia la realtà odierna, insomma. Quindi troveremo la mouse, troveremo l'email, troveremo computer, eccetera. Guardate che un lavoro del genere è il Brennard Basis Tunnel ci metterà un po', insomma, per arrivare in fondo, ma un lavoro del genere tu non riesci a portarlo a termine se non hai una squadra redazionale dietro che ti aiuta, e perché ci sono dei periodi di scoramento dove uno dice guardate qui non se ne esce, insomma, è un lavoro veramente immane. Però bisogna dire che grazie all'informatica, grazie ai computer, questo ha agevolato tantissimo il lavoro che ci siamo ripromessi di fare. I pionieri che ci hanno preceduto, che hanno veramente lavorato con solo di penna, ha dell'inverosimile, insomma. Queste penne noi le incontriamo ancora a volte quando andiamo a passeggiare nei boschi, ma oggi grazie appunto a tutte le agevolazioni che vengono offerte dall'informatizzazione è veramente un aiuto enorme. Quindi ci tengo a sottolineare che è una componente costitutiva del lavoro proprio il supporto informatico, tant'è che adesso abbiamo completato anche la versione elettronica del dizionario che sarà consultabile in rete a breve. E devo dire che abbiamo avuto la fortuna anche di poterlo presentare a Firenze con l'Accademia della Crusca, per questo l'ho anche citata, e loro hanno riconosciuto che l'applicativo che siamo riusciti ad elaborare è veramente all'avanguardia, insomma, e può essere esteso a qualsiasi lingua di matrice indoeuropea, cioè qualsiasi lingua flessionale, per capirci, insomma. È in corso d'opera un progetto analogo in Val Badia, che è impostato sul nostro stesso applicativo. Cioè, io quando parlo di applicativo intendo la mascherina di compilazione di ogni singola voce che noi troviamo nel dizionario. È impostato sul nostro stesso applicativo, quindi loro risparmieranno anni di lavoro. Quindi potranno attingere da tutto il lavoro che noi abbiamo in entrata in italiano, e loro si limitano ad aggiungere la variante ladina della Val Badia. Quindi ecco, questo dizionario cartaceo non sarebbe stato possibile senza l'ausilio, senza tutto l'armamentario informatico. Il dizionario si apre con una prefazione di Tullio De Mauro e di Luca Serianni, due insigni linguisti che sono oltretutto miei carissimi amici, ma soprattutto maestri, e che ci hanno offerto tutta la consulenza scientifica anche dell'intero lavoro. Allora, finora tutti i lavori lessicografici che noi abbiamo elaborato si limitavano ad una lingua d'entrata, nella fattispecie tedesco, ladino. I problemi sono sorti quando abbiamo deciso di voler fare un dizionario bilingue. Cosa vuol dire questo? Che fin tanto che tu hai un lemma pieno, se ad esempio prendo la lemma casa, lo traduco in ladino con casa, la macchina immediatamente mi dà il corrispettivo casa, casa. Però se io vado a casa mi diventa una rogna non da poco. Cioè io come faccio a sistemare una fraseologia di questo tipo? Va assegnata in qualche modo. E quindi i problemi che sono sorti sono stati veramente grossi. Ci tengo a riassumere. Questa è una scheda tipo, in entrata italiano-ladino avevamo un colore, l'entrata gardenese-italiano un altro colore. Quel menu che vedete in basso ci consentiva di compilare ogni singola scheda, e nel contempo dovevamo anche compilare la scheda ladina. Quindi in un dizionario bilingue, in sintesi, se io mi ritrovo ad avere un capolemma, torno a ripetere, casa, casa, casa, casa, e ci siamo. Io vado a casa, cosa faccio? Io fondamentalmente ho due possibilità che vedremo. Se vado a cercare vado nel dizionario, chiaramente non lo trovo, perché una convenzione, è una convenzione lessicografica, mi dice che non me lo dice neanche un dizionario, a dire il vero, devo saperlo io, che trovo a capolemma andare. Eventualmente questa fraseologia io la posso assegnare a andare e o a casa. Perché? Perché sono a capolemma, altrimenti avrei un caos totale. L'intero lavoro di compilazione e di layout, di impaginazione, è una creatura nostra dell'istituto. Noi praticamente abbiamo consegnato in tipografia il PDF e hanno stampato. Quindi noi siamo riusciti ad esportare tutti i dati in un formato XML, e quello che vedete sotto è in formato una scheda InDesign, e tutta una creatura nostra in istituto. Quindi non ci siamo appoggiati a nessun altro, e questa è una cosa, secondo me, non da poco, perché anche le grandi opere lessicografiche si appoggiano in maniera molto più evidente anche alle tipografie. L'illustrazione dei significati in ladino è spesso arricchita da frasi esemplificative, come vi dicevo, fraseologia, eccetera. Quindi, questo per riassumere, se noi abbiamo scoiato lo schirlata in gardenese, ecco che io ho immediatamente anche schirlata scoiattolo. Questo è immediato. Quindi vediamo che in questo caso specifico la concordanza tra capolemma italiano e capolemma ladino è praticamente anche totale, se notate, no? In più però c'è che una fraseologia, quella bambina è uno scoiattolo, dove andiamo a spiegare che è agile e svelta come uno scoiattolo, no? Quindi è una, lo si può dire sia in ladino che anche in italiano. Problemi che sono sorti appunto sono questi: se io ho un capolemma, e non tutti i dizionari hanno a capolemma lavarsi, in tedesco ho sich waschen e in italiano, in ladino gardenese ho se lave giù. Quindi in questo caso io devo andare ad assegnare al capolemma lave, lavare, una sorta di sottolemma del verbo pronominale se lave giù, o verbi pro complementari andarsene, s'engi. Andarsene in italiano è un lemma pieno, se vogliamo, in ladino invece è una locuzione. Ecco, questo è l'esempio che vi ho citato poc'anzi. Io andare, gi, io vado a casa, io vedo a casa, e vedete l'inverso. Quindi io ho assegnato questa fraseologia ad andare e a casa, e nel rovesciamento a G e a casa. Guardate che questo può sembrare adesso novità, però noi ci abbiamo veramente lavorato tantissimo per riuscire a arrivare a fare automaticamente queste operazioni. Un'altra difficoltà è stata quella del trattamento del lessico alpino cosiddetto. Cioè, voglio dire che noi abbiamo una porzione di lessico in Italia, in ladino, che non ha un corrispondente immediato in italiano. Quindi ci siamo appoggiati ad iperonimi, si chiamano in termine tecnico. Vuol dire che, ad esempio, questo oggetto che vedete, che è una grossa cesta, noi abbiamo cesta, cesta o cest, e abbiamo messo anche questa definizione. Vedete, sotto cesta abbiamo cesta, ma anche biena in ladino. In altri casi, nel dizionario elettronico poi si vedrà, abbiamo tutto il lessico ladino audio, e prepareremo anche tutte le espressioni fraseologiche, e ci sarà anche una galleria per immagini. Quindi uno può andare a cercarsi delle immagini. Questa è una tradizione tipicamente pasquale, che ha origini turche e anche romane, della scoccetta. Io penso che nessuno di voi abbia mai sentito questa parola, ma è la tradizione pasquale, consistente nel battere un uovo tenuto chiuso nella mano con un altro di un altro giocatore. Questa è una tradizione che si è diffusa anche dalle nostre parti, ma non è che sia immediato. Se poi tu riesci a allacciare questa espressione a un'immagine, vedete che la cosa si diventa più evidente, insomma, no? che agevola insomma la comprensione. Quindi il dizionario online, come ho detto, sarà consultabile a breve in rete, è gratuito, e questo consente veramente di spaziare nella ricerca, veramente che uno può andare a cercarsi anche solo singole categorie grammaticali, porzioni di lessico alpino, geologia, toponomastica, ecco, può ricavare delle singole porzioni di lessico, quindi le ricerche sono molto più affinate con un dizionario online. Un'altra novità è che un dizionario elettronico ti consente di aggiornarlo costantemente. Questo è un aiuto veramente grosso. Io ho già verificato che c'erano degli errori e noi abbiamo potuto tranquillamente correggerli in tempo reale. Quindi correggi sull'applicativo e ha poi una ricaduta immediata sul dizionario elettronico aperto a tutti. Ecco, questa è la versione audio e galleria per immagini, come vi dicevo. Questa è una En Rosadira, che in realtà è un termine ladino, ma è entrato ormai in tutti, friulano a dire il vero, ma ormai è entrato in tutti i dizionari, i principali dizionari italiani, e l'En Rosadira è questa cosa qui, se voi la visualizzate, ecco che vi aiuta a comprendere insomma di cosa stiamo parlando. Quindi quello che ho cercato di offrire è una realtà di qualche anno fa, e in questa realtà, questo è il paese dove abito io, 5, 10, 15, 40, 50 anni fa, 60, e in queste case chiaramente non c'erano gli SMS, gli MMS, i tablet, i computer, questa era una realtà molto più semplice. Questa è la casa dove abito io. Stamane comunque ci siamo svegliati con la neve. E Selva è come si presenta oggi. Questa è praticamente la casa mia, e qui in queste case ci sono i computer, ci sono gli SMS, gli MMS, tutto l'armamentario informatico, quindi non è che viviamo in un'altra realtà. Siamo totalmente, tra virgolette, globalizzati anche noi. In realtà però l'En Rosadira, l'En Rosadura, c'era un tempo, è rimasta anche oggi. Vedete che alcune cose sono incorruttibili. Adesso io direi facciamo tentiamo perlomeno, insomma, non so se ci stiamo tutti, però con un po' di buona volontà almeno a volte si può fare. Dunque, questo è una cinciant, questo è un cinquino. Adesso se ci teniamo un attimino con un po' di buona volontà, mi sa che ci possiamo stare tutti. I bagagli già sono sul tetto dell'automobile e cerchiamo di partire insieme. Pion via in ladino significa partiamo. Ora io questo non ve lo dirò mai, questo resterà perché continuano a chiedermelo quando vado in giro, se sono io uno di questi ragazzi. Potrebbe anche essere, voglio dire, però se qualcuno di voi capita anche dalle nostre parti, come penso, o altrimenti vi consiglio di venirci, non è che ci ritroviamo in una realtà di questo tipo. Come torno a ripetere, siamo globalizzati, insomma, abitiamo anche noi in una realtà totalmente globalizzata, che però manteniamo anche alcune peculiarità. Quindi vedete che non so cosa sono appese lì, degli indumenti strani. Sì, sono cose strane che poi loro magari non conoscevano neanche. Ma poi adesso mi sa che li usiamo tutti, no? Queste. Ora io partirei da una considerazione. Noi possiamo parlare di tante invenzioni, no? Ci sono state veramente conquiste in questi anni, delle invenzioni geniali, però secondo me, io più vado avanti più mi rendo conto che una delle invenzioni più grandi che ci siano mai state è l'alfabeto. Cioè, se voi ci pensate un attimino, praticamente con 21 segni, 25 se vogliamo, no? Anche con i segni, chiamiamoli così, esotici, cioè noi riusciamo a tradurre i nostri pensieri, le nostre emozioni, quello che abbiamo dentro di noi. Cioè io voglio dire, se io ho una O e poi vi regalo una I, c'è una trasmissione che lo fa, o c'era una trasmissione, dammi una O, una I, una C, una A, e non vi dice niente. Se io assemblo però queste lettere in un certo modo e le faccio diventare ciao, ecco che questa parola acquista colore. Cioè è una parola estremamente piccola, semplice, elementare, però quanti la usano? E poi se ci arriveremo la ricostruiremo questa parola da dove arriva. Questa è una parola che ha avuto successo e si è diffusa in diverse parti, in diverse parti del mondo, insomma. Chiaro che l'alfabetizzazione elettronica non è che oggigiorno si parli e si scriva di meno, anzi si scrive molto di più, e come voi sapete perfettamente l'acronimo SMS significa siamo meno soli, punto interrogativo, oppure una considerazione, una constatazione, siamo meno soli. Vuole anche dire quello che sapete voi, chiaramente. Allora, in questo mosaico variegato dove abbiamo, secondo me, la fortuna di vivere, se tre bambini, tre ragazzini si mettono insieme, uno è di lingua tedesca, un altro di lingua italiana, un altro ancora di lingua ladina, questa coltre meravigliosa che abbiamo sopra la nostra testa, oggi magari un po' meno, almeno da noi. Allora c'è il ragazzo ladino che la chiama Ciel o Ciel in Valbadia, poi un ragazzino tedesco lo chiama Himmel, un italiano Cielo. Però se voi chiedete a tutti e tre dov'è, tutti all'unisono rivolgono lo sguardo al cielo. I problemi, secondo me, arrivano, subentrano, se iniziano ad andare a cercarselo su un tablet. Quello è il problema. Quindi con tutti gli aiuti che noi abbiamo, con il computer, io secondo me saluto veramente, li utilizzo dalla mattina alla sera, però cerchiamo sempre di usarli come strumenti al nostro servizio e non annulliamoci in questo armamentario che veramente appiattisce ognuno di noi. Thank you. Allora, l'imbocco della Val Gardena, allora, Costa Su è un toscanismo. Costa Su semplicemente significa lassù, più a nord. Ma quanti, ecco, quando all'imbocco della Val Gardena uno si ritrova con le segne della toponomastica in tre lingue. Questo, diciamo, è il primo impatto se uno ci fa caso. Allora, all'imbocco di, appunto, nei pressi di Ortisei, voi trovate Ortigei, Sankt Ulrich, Ortisei. Ortigei probabilmente ha una deriva da Urticetu, che è un luogo disseminato di ortiche. Oggi invece la Val Gardena è disseminata di alberghi, quindi le ortiche sono molto meno e ci sono alberghi, ci sono tante case. Selva invece deriva dal latino silva e significa bosco. La parola ladina corrispondente a bosco oggigiorno è bosch. L'antica parola ladina invece era selva, che pochi conoscono, insomma, ecco. Quindi questo, diciamo, è il primo impatto. Runcadic vi svelo anche che è legato a Runcaglia e anche a un pontefice Roncalli, insomma. E Roncaglia vuol dire roncare, no? Quindi vedete anche quando siamo quanto siamo, insomma, vicini nella, studiando l'etimologia di una, la storia di una parola. Ecco, non è che sia proprio così adesso, ce n'è un po' meno di neve, insomma, si sta squagliando ancora. Ecco, queste in breve sono le valli ladine divise poi in tre province. Noi, l'Istituto Ladino, è preposto alla salvaguardia e alla promozione della lingua ladina in Valbadia e in Val Gardena. L'Istituto Ladino Micurà de Rue. Micurà tradotto è Nicolò da Rue, presso il fiume, che viveva presso il fiume. Questa è l'area residuale ladina in due regioni, tre province, 18 comuni. Si calcola che i ladinofoni, chi parla ladino, siano circa 30.000 e ammontano alla circa 4,53% degli abitanti dell'intera regione. Questo è l'Istituto Ladino, la sede di San Martino. E questa invece sotto, che vedete, la sede staccata di Selva, dove lavoro io, insieme ai miei collaboratori, alla Rita che è dietro di voi. Quindi il ladino a tutti gli effetti è una lingua neo-latina, o romanza se vogliamo. Quindi ancora ai tempi di mia nonna era imperante il monolinguismo, tant'è che mia nonna a volte mi raccontava che in estate andava Orai Tudash, andava praticamente dalle popolazioni tedesche, e per me era andare in Germania, in Austria, e questa cosa era incomprensibile. In realtà poi ho scoperto che Orai Tudash semplicemente era andare a Castelrotto, era andare a Lyon, praticamente in una realtà accanto, vicina, limitrofa alle valli ladine, ma dove si parlava tedesco, e loro invece erano monoglotti, parlavano solo in ladino. Poi si è passati al bilinguismo, al plurilinguismo. La realtà scolastica nelle valli ladine è una realtà plurilingue, cioè una parte delle materie vengono impartite in lingua tedesca, un'altra parte in lingua italiana. Lingua di insegnamento e veicolare anche il ladino, e da qualche anno a questa parte, in questo variegato mosaico, è entrato a far parte anche l'inglese. Noi, tra parentesi, organizziamo anche spesso corsi di russo, perché c'è una componente di turisti sempre più cospicua, sempre più sostanziosa, che frequentano le nostre valli, soprattutto nel periodo invernale, che vengono a sciare. Quindi ci sono molti albergatori che sentono il bisogno di avere un'infarinatura almeno anche di russo. Ecco, questa è un'immagine del Sassolungo 10 anni fa, no, saranno anche qualche decina di anni fa, ecco, dove, quando si attraversava il valico, adesso sono le strade si sono un attimino allargate, il traffico è anche più sostenuto. Di fronte a voi questo è il Sassolungo. Ecco, ci tengo a sottolineare un aspetto, insomma, non è che nelle valli ladine crescessero le angurie e i meloni, insomma, ecco. Quindi questi pendii, questa realtà, per riuscire magari a ricavare qualche patata o della, quello che riusciva ad offrire la terra, dovevano fare delle cose veramente folli, cioè nel corso dei mesi in primavera la terra franava verso il basso e allora dovevano recuperarla e riportarla su. Provate a immaginare, comunque la gente è vissuta lì per diversi secoli, per queste parti, insomma, queste condizioni. Ecco, Urtisei, come si presentava un tempo e come invece si presenta oggi. Adesso io desidererei leggervi qualcosa in ladino, voi potete seguirmi o in ladino o potete leggere la traduzione più o meno visualizzata. Oi lava, ma conte sa cocl fova zakan. Zakan, ciò sagt dice, una dratta stanta fovl. Un mesova metra al monte un grum de mouton, si trups moriva e sangiva in paravis. Al, il naine, rova cesa stank da saira. Ne pudova patidinia, il fova bon scute. Canc cuginova un poz de bale slega, ti la cometovi fora clamutans. Ma iat pa me una bala, can cruva chi muton sai pa fur na dratta fam. Na dratta pcunia fovel, cal sei dat di? El fova ben ria fe. El fova d'autri temps? Adi da quel dut vel d'auter. Nus fech dut un tor plus sauri. I zang, ne se cordi, ne mus fenia. Pos gi am tola pension tla posta, io son rica. Nonna percepiva, peccato che mancava Renzi a quei tempi, mancavano gli 80 euro di Renzi, la nonna percepiva 150.000 lire ogni due mesi, quindi sono 75 euro. Lei il giorno che appunto le era capitata sta cosa, che poteva andare all'ufficio postale a prendersi dei soldi, era rimasta basita da questa cosa, cioè diceva ma... com'è possibile? Io posso andare all'ufficio postale e mi danno dei soldi. Siete stanchi? No. Adesso ci arriviamo pian pianino. Questo possiamo saltare. Ecco, alcune notizie in breve. Nel 51 i ladini della provincia di Bolzano sono riconosciuti da una legge come un gruppo linguistico paritario rispetto agli italofoni e ai germanofoni. Vuol dire che una parte degli atti ufficiali viene anche tradotta in ladino. Ad esempio, il materiale elettorale viene anche tradotto in ladino. A partire dal 48, come vi ho accennato, nella provincia di Bolzano una parte delle materie di insegnamento viene impartita in lingua tedesca e l'altra in italiano. Il ladino è presente, come vi ho già, anche come materia di insegnamento. Abbiamo un settimanale interamente redatto in ladino che è la USD Ladins. Abbiamo anche uno spazio o alcuni spazi nella RAI, cioè RAI Ladina, che è stata ultimamente anche potenziata. Dal 79 esiste una radio privata, Radio Gardena, che trasmette in prevalenza in lingua ladina, ma anche in italiano e tedesco, Radio Gardena Dolomites. Ecco, queste sono alcune caratteristiche del ladino, ad esempio la palatalizzazione, buccam, boccia, bocca, gallum, gial, cane, chan, eccetera. La conservazione, ad esempio, delle consonanti, abbiamo dal latino si mantiene fiamma, abbiamo flama, che si mantiene dalla, dal latino. La lenizione delle consonanti intervocali che sorde latine come catenam, chadaina, sapere, savai, eccetera. Ecco, questa è una curiosità, però appunto una parola senza confini, come vi dicevo, è ciao. Ciao in realtà è una forma sincopata che deriva dal veneziano, che è sciavo, praticamente sciavo, servo vostro. Questa parola poi è passata gradualmente a ciao e ha avuto veramente successo, è arrivata e si è diffusa in molte lingue, tra l'altro anche in, in ladino. In tedesco, se voi andate a consultare il Duden, il Varik, voi trovate tschüss, ma trovate anche ciao con la trascrizione con l'alfabeto italiano, ma anche tschau con la trascrizione grafica dell'alfabeto tedesco. Tra parentesi, in tedesco abbiamo servus e vedete che quindi servus si lega anche a ciao. Nelle tre lingue abbiamo molte lingue che ci accomuna, molte parole e definizioni che ci accomunano. Se prendiamo luna, avai la luna, vest dalla luna, avere la luna di traverso, avere le lune, schlechte Laune haben, schlecht gelaunt sein. Vedete che in molti casi in ladino c'è un'espressione vest da lunas, che tradotto letteralmente significa essere di lunedì, però se no, non vuol dire assolutamente nulla. Però se sappiamo che lunedì deriva anche da luna, ecco che il cerchio inizia a chiudersi. Quindi vediamo che ci sono molti punti di incontro tra le tre lingue. Con i cognomi ladini hanno avuto una trascrizione, quindi un Costa de Rue Inaz, l'Arciunai Mureda, con un suffisso ER, hanno acquistato poi una, praticamente una trascrizione in tedesco. Costa è diventato Koschna, De Riebach Pacher, il Mureda, ce n'è solo più una famiglia Ortisei, che sono tornati a Mureda, Mureda da Murus, siccome in un tempo tutte le costruzioni inizialmente erano in legno, ma la sola parte adibita era in pietra, era quella della cucina, quindi da lì Murus, che deriva, diventa poi Moroder, Marader, eccetera, ma insomma Moroder. L'Archneider deriva da l'Arciunai, che è un bosco di larici. Quindi voi sapete bene che il gatto delle nevi è un felino, però è anche il gatto delle nevi, il Giattalaneif o la Schneekatze. E vedete che c'è una corrispondenza praticamente piena. Noi possiamo perdere la testa in tre lingue, non è che la perdiamo in questo senso, perché altrimenti sarebbe veramente un guaio. Ma perdere il cap zakei, perdere la testa per qualcuno, den Kopf für jemanden verlieren. Poi quello di essere una vecchia volpe ist ein schlauer alter Fuchs. Aliena Volp, ecco che c'è un incontro, che poi questa volpe ce la fa sempre, insomma, di soppiatto. Però è curioso, tra tutto questo continuo parlare, parolaio, e io ho riempito questi spazi adesso di parole, se voi ci pensate bene, però, la maggior parte del nostro tempo è immerso nel silenzio. Quindi sono intervalli le parole, e questo silenzio può essere pesante, può essere leggero, può venirci incontro, ci può soffocare. Questo dipende anche in parte da noi. E poi l'infante, in realtà, nel suo significato, è che chi non sa parlare, e il fanciullo invece, il fante è quello che inizia, che sa parlare. Quindi una lingua si muove, qualsiasi lingua si muove e deve aprirsi a nuove esperienze espressive. secondo me è importante lasciare andare le cose, le consuetudini che hanno fatto il loro tempo, cioè quello di aggrapparsi al passato per definizione non serve assolutamente a nulla, però conservare la memoria storica è importantissimo, perché basta, pensiamoci un attimo, anche una politica linguistica nefasta, forse l'unica politica linguistica nefasta è stata quella del tempo del fascismo, quando è stata imposta per legge di parlare in un certo modo, bisognava fare un repulisti generale, non bisognava utilizzare esotismi, e bisognava utilizzare Courmayeur, era diventata Courmayeure, quindi Courmayeur non andava più bene. Il lei era troppo femmineo e allora bisognava usare il voi, e allora quel genio comico e linguistico di Totò ebbe a dire: caspita, allora da oggi dovremmo iniziare a dire non più Galileo Galilei, ma Galileo Galivoli. Ecco, noi abbiamo privilegio anche se uno abita a Bolzano, però bisogna farle succedere queste cose. Io ho privilegio di abitare qui, certo, vado a farmi delle pedalate meravigliose. Questa è la Vallunga, Val Langenthal. Langenthal, oh, scusate, c'è un errore. Scusatemi, Langenthal. Georg, ti consiglierei di andare da queste parti. Sono posti molto molto bello. Metti un dito nella piaga. Granel portato al vent dura nos for chi è mesan do non è nia dant non è più fustias fantinas spiartel sablon daluni i gido ondas il ziemo il lo na formia a fe Schlappofe, Nia, in pompo de plu. Questa è Forni. Ah, ecco. Bella. Bellissimo. Chi è interessato eventualmente, siccome è una delle prime cose, una prima raccolta di poesia che avevo fatto 20 anni fa, mi pare. Chi è interessato può prenderne anche una copia. Bene, siamo arrivati alla fine. La sensazione, queste sono foto che scatto quando vado a fare appunto i miei giretti da solo. Chiaro, voi come dite a autunno? Noi in italiano diciamo autunno, in tedesco diciamo Herbst. In inglese diciamo, in francese diciamo, e si dicono, lo si può dire in tante lingue. Però torno a ripetere che tra le 6-7 mila lingue del mondo ce n'è una che ci accomuna a tutti, ed è una lingua che ha a che fare con la nostra testa, certo, ma che fare anche col nostro cuore, con le nostre emozioni, e che vanno intessute con i nostri sentimenti, perché i sentimenti, le emozioni sono qualche cosa che abbiamo dentro di noi, ma i sentimenti vanno costruiti insieme, non è che sia una cosa data, bisogna costruirli insieme. E noi abbiamo il privilegio di abitare questi posti. E come si dice, a un certo punto tutti questi alfabeti svaniscono, perché quante volte quando andiamo ad ascoltare un concerto oppure un qualche cosa che ci piace, noi utilizziamo un aggettivo che poi ci serve da riempitivo per tante cose. Bello. Ecco, noi ci accorgiamo che le parole arrivano fino a limitare, arrivano fino a un certo punto. E poi restiamo, quando uno vede queste cose, questi colori, vedete sullo sfondo c'è il gruppo del Sella e c'è uno spicchio anche del, sbuca anche uno spicchio del Sassolungo. E se siete d'accordo, vi leggo ancora una mia poesia in italiano. E una cosa che mi impressiona sempre è che quando, in primo autunno, questi colori ancora non ci sono, però dentro gli alberi, dentro la natura, da qualche parte ci sono. E allora le 7 note le conoscete tutti, però non dimenticate mai una cosa, secondo me, che è fondamentale. Quando queste 7 note si accordano con l'ottava, allora succedono delle cose meravigliose, e l'ottava nota siete tutti voi. Estate d'autunno, verdeggiare estinto. Chissà se prima del tempo gli alberi al riparo di ruvide scorze sono già gravidi d'autunno. Le foglie sprigionano incendi di colori, scosse da goccioloni di pioggia, indugiano tremolanti come acrobati in balia del vento. Una folata distratta decreta sorte, le stacca una ad una, e un crepitio di foglie accorda passi tra i rintocchi dell'ottava nota. Grazie. Grazie ancora al nostro ospite Marco Forni, ringrazio il professor Senoner, è stata una bellissima serata piena di musica e di poesia. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Spero di ritrovarvi tutti appunto in biblioteca o in altre occasioni. Grazie a voi. Grazie.